dove tutto è represso, e lui è dove troppo è concesso. Questa è la loro storia. Panorama di cemento, il vento spira lento, smorzato da mille blocchi lungo il cammino. La prospettiva la sopporta a stento, processione a capo chino, un passo dal vicino. Alza lo sguardo, un giorno sta passando, vede le impronte innocenti dietro le sue spalle ossute. I muri parlano, riportano frammenti che nel dubbio sono scissi ad uso di carogne astute. Un'esistenza al contrario, il ritmo risulta scandito da un segnale orario, detta funzioni essenziali a tutto il circondario, incluso ciò che va riportato dentro l'immaginario. Ma lei respira e fissa quell'ostacolo, la barriera tra le ombre di quella bandiera. Crede ancora in un miracolo, fedele ai suoi pensieri che si perdono tra i numeri della sua schiera. Lascio condurmi lentamente in quello stato, rosa che cresce lottando contro del filo spinato. Sotto il velo lo scenario insanguinato, schiavi di sto mondo abbandonato, questo è il risultato. Quel che sogno viaggia oltre, così tanto da solcare questa coltre. Limite annebbiato, in apparenza resto come senza fiato. Oltre cortina, c'è il futuro, sembra assicurato. Panorama intermittente, il clima addolcito da un'aria artificiale deprimente. Lui non conosce l'attesa, percorre un cammino ben addobbato senza alcuna sorpresa. Alza la camera, riprende ciò che brama, al termine della disanima l'egocentrismo chiama. Gli schermi scorrono, discorrono, un fiume di secondi rubati che non ritornano. Un'esistenza regolare dove la ribellione è resa sterile da fitte trame, dove ciascuno può sentirsi un po' speciale senza esserlo, deserto dei neuroni, trionfo del banale. E lui rielabora quello che ha assimilato, lamentarsi pur essendo fortunato. Non credi in nulla che non venga brandito, diffuso ai quattro venti sotto forma di un virtuale invito. Lascio condurmi lentamente in quello stato, rosa che cresce lottando contro del filo spinato. Sotto il velo lo scenario insanguinato, schiavi di sto mondo abbandonato, questo è il risultato. Quel che sogno viaggia oltre, così tanto da solcare questa coltre. Limite annebbiato, in apparenza resto come senza fiato. Oltre cortina, c'è il futuro, sembra assicurato. Panorama ormai desueto, si aguzza la vista per abbracciare un qualche cosa di concreto. Quei mattoni, coi murali sono negli annali, buoni in quanto tali, giusto a scopi ornamentali. Era una sera bella ma senza anima, tagliente in volto e da riflessi oscuri di una arrugginita lamina. Cosa attraversa adesso la città? Giusto quell'osmosi che conduce alla normalità. Però per lei è un altro sapore, vive nel tepore di sentirsi nel lato migliore di una realtà complementare solo a tratti. La sua figura tira veleni morbosamente a tratti, e lui la fissa rannicchiata al suolo, tipo sprezzante che si sente pure mezzo buono. Mentalità da scemo, tanto è tutto un gioco, la storia passa e il suo obiettivo è sempre meno a fuoco. Lascio condurmi lentamente in quello stato, rosa che cresce lottando contro del filo spinato. Sotto il velo lo scenario insanguinato, schiavi di sto mondo abbandonato, questo è il risultato. Quel che sogno viaggia oltre, così tanto da solcare questa coltre. Limite annebbiato, in apparenza resto come senza fiato. Oltre cortina, c'è il futuro, sembra assicurato.